Allora, torniamo in voce, 17:40 minuti. Sì, io penso che valga la pena sentire le tre voci di queste tre autorità. Sono 10 minuti, noi come ormai abbiamo capito che ci viene meglio, ve le faremo un po' sentire appunto in diretta e poi vi tradurremo, tradurremo quello che dicono. 3 minuti, comunque come sempre in spagnolo, che credo che con un po' di concentrazione si può. Quindi andiamo ad ascoltare queste testimonianze. Compuche, aquí estamos en un espacio donde estamos ejerciendo control territorial en el loft, se llama Colpi Lavellano, y se hizo este chagún que estaba agendado desde hace mucho, desde los principios de meses de septiembre, donde analizamos y proyectamos nuestro trabajo que está definido bajo los términos de la coordinadora, ¿ya? Que tiene que ver con el ejercicio del control territorial, hacer uso de los espacios de la forestal mediante los chagunes, mediante la ceremonia, y el ejercicio también de poder hacer la ruca y la siembra, que son las proyecciones que le damos, las transformaciones que le hacemos estos los espacios forestales, darle la vida mapuche, volver a darle vida mapuche a estos territorios. Este tragún hoy día se desarrolla en un contexto muy particular. Allora, no, l'abbiamo fermato perché appunto la prima voce che avete sentito era appunto dell'onco Juan Pichun, e adesso ricominciamo con la voce di Hector Yekin. Ci spiega Juan Pichun che questo era un tragún che diciamo era già nel calendario da inizio settembre, e questo serviva e serve questo tipo di tragún per analizzare e anche pensare a futuro il lavoro che c'è da fare, no? Che c'è la comunità da fare, che decide di fare. Spiega il controllo territoriale, di cosa si tratta, che per loro significa la possibilità di fare questi tragún che sono importantissimi. Ne abbiamo parlato per esempio uno dei mezzi di comunicazione alternativi. Esatto. No? Una forma di incontrarsi, di confrontarsi, di organizzarsi, cioè non è solo un'assemblea, no? È un'altra forma semplicemente che ha tanto di assemblea sicuramente. La possibilità comprende il fatto del controllo territoriale, di fare la ruca, questo spazio sì, importante. Cioè diciamo il tragún, lui dice più di occupare questi spazi occupati, cioè di attraversare fisicamente, stare in questi spazi occupati significa dalle questo. Forestali facendo un tragún, cioè non solo costruendo le nostre rucche, ma poi facciamo il tragún, è un incontro delle comunità, quindi poi da un'altra parte ci incontreremo, attraverseremo questo territorio con i nostri rituali, con i nostri momenti di vita che sono nelle comunità dove appunto costruiremo, ma li attraverseremo anche con queste cerimonie. E lavorando la terra, quindi costruire poi nelle comunità, nel territorio delle comunità, costruire le rucche, la rucca che sono appunto le case, e seminare la terra, che è lì dove tu lasci il segno nella terra, no? Quindi in quelle terre che, come abbiamo spiegato, si usano per coltivare, per far crescere dei pini che succhiano tantissima acqua, che sono solo per l'industria della carta, e che nemmeno sono autoctoni a volte, quindi producono questo problema nell'ecosistema. Andiamo ad ascoltare, dicevamo, la seconda testimonianza. Volver a darle vida a mapuche a estos territorios. La idea se desarrolla en un contexto muy particular. Estamos dentro de lo que se entiende como un estado de emergencia decretado por el Estado chileno. Y bueno, nosotros lo hemos interpretado como una medida desesperada de parte de este Estado a la hora de salvaguardar los intereses del empresariado comprometido en la lucha con nuestro pueblo, ¿ya? Esto toda vez que nuestras reivindicaciones territoriales y políticas han chocado de frente con la reproducción del capitalismo en esta parte, ¿ya? Aquí estamos, por ejemplo, en un predio que se suponía forestal y hoy día está de mano de un proceso de recuperación por una comunidad. Entonces nosotros estamos aquí en este momento desarrollando una parte importante de nuestra lucha, que es luchampcar, que es hacer tragún, deliberar y reforzar todo este proceso de control territorial que está haciendo esta comunidad. Ci raccontavano in questo caso si parlava dello stato d'emergenza, di che cui questo parlavamo. Travun comunque si stava svolgendo durante uno stato d'emergenza che appunto si leggeva come la faccia proprio della disperazione, della meschinità e della disperazione di un sistema che è stato messo alle strette. È disperato per difendere, diceva, gli imprenditori, no? Perché? Perché la loro lotta, spiegano, va contro giustamente il sistema capitalista. E di nuovo, il controllo territoriale, svilupparlo, farlo sempre più presente e allargarlo significa, come diceva Marta, anche vivere veramente questi territori sviluppando la loro cultura, e per questo parlava di nuovo della presenza sul territorio. Sì, e diceva, mostrando, insomma, poi sulla nostra pagina di Facebook abbiamo postato questo video, quindi io vi invito anche ad andarlo a vedere, perché effettivamente si svolge proprio in mezzo a un territorio che si vede, ci sono degli alberi tagliati, sono palesemente i simboli del fatto che fosse una proprietà forestale, e lui diceva appunto questa era una proprietà forestale, adesso è un recupero territoriale, no? Insomma, vuol dire che ci siamo noi, intorno ci sono evidentemente i segni di un passaggio industriale, alberi tagliati in maniera becera, infame, uno scempio, e loro lì a fare questo travun, appunto dicendo eccoci, adesso ci siamo noi, questo significa recupero territoriale, come a dire sarà anche la tranquillità di questo posto. Continuiamo ad ascoltare la testimonianza. La militarización, el estado de emergencia y la presencia de militares en el Gualmapu, ¿ya? Porque existe de parte del movimiento mapuche, ya sea con la direccionalidad de la CAM o de otras expresiones autonomistas revolucionarias, existe en este momento una vasta territorialidad recuperada, y que esta vasta territorialidad recuperada ha sido principalmente en contra de la industria forestal. Entonces, nosotros no estamos recuperando o hacemos resistencia, no va por hacer resistencia, sino que también hacemos reconstitución o reconstrucción de un mundo mapuche. Y ese es el problema que más lo aborda, digamos, el sistema. Es decir, ellos no quieren que esto sea transformado de tal forma. No quieren que exista mundo mapuche con justicia, con una mirada más de equilibrio, más de reciprocidad con el medio, y donde haya justicia social o haya un tipo de sociedad más humanitaria, más colectiva, más comunitaria, como el basamento mapuche. Nosotros sabemos y tenemos claro que... Beh, insomma, mi sembra molto chiaro quello che ha detto, no? Il problema qui non è solo per il nostro nemico, no, per loro il problema non è solo il recupero territoriale, è che loro sanno che il nostro recupero territoriale significa tornare a fondare il nostro mondo, a fondare la nostra cultura mapuche, e la cultura mapuche significa instaurare un mondo che sarà più rispettoso della comunità, più rispettoso dell'ambiente, avrà tutte quelle cose che non esistono nel progetto di mondo. Sì, perché segnalava all'inizio che il recupero territoriale va giustamente contro le forestali, no? La rappresentazione del capitalismo da quelle parti, e aggiungeva quest'ultimo che diceva Marta, loro non si tratta di una resistenza a se stessa, si tratta di trasformare la società, la loro lotta, un'altra volta ripeto, lo aveva detto, va contro il capitalismo, quindi il recupero territoriale significa proporre per come si vive quel recupero un'altra forma di vita, un'altra forma di organizzare una società contro di quello, lotta o reprime lo Stato cileno. Continuiamo ad ascoltare in questo caso la testimonianza di una compagna. El basamento mapuche. Nosotros sabemos y tenemos claro que esto no es ahora, esto es algo que se viene dando desde los inicios de la invasión que tiene nuestro pueblo. Entonces, por lo tanto, hoy día, por más que quieran amedrentar esta lucha, por más que quieran hacernos decaer como pueblo, eso no lo van a conseguir, porque no lo consiguieron antes, tampoco lo van a conseguir ahora. Nosotros somos un pueblo que ha resistido durante mucho tiempo y que tiene la fuerza y las capacidades de seguir haciéndolo. Nosotros las comunidades tenemos capacidades de sobra como para hacer una vida autónoma. Nosotros ejercemos el control territorial, nosotros desarrollamos autonomía dentro de nuestras comunidades, lo que nos permite llevar una vida sana, saludable, porque nosotros no consumimos los productos que ellos venden en los mercados, por ejemplo. Son mínimas las cosas, ya sean útiles de aseo, lo que nosotros vamos y buscamos en ciertos puntos. Entonces, eso también obviamente al Estado le molesta, porque nosotros hoy día estamos promoviendo un modelo de vida para nuestros hijos, inclusive para la misma sociedad chilena, de hacer este cambio de vida y de no consumir todo lo que viene envasado y empujado. Entonces, eso hace que para ellos esto sea peligroso. Sí nos pueden amedrentar, sí nos pueden enviar médicos, sí, pero si... Cambia un attimo il discorso, quindi volevo fermarla un attimo. Sì, sì. Perché faceva questo discorso proprio sull'autonomia, nel senso anche appunto di proporre un modo diverso di procurare il proprio cibo, di uscire dal mercato, di cominciare a di nuovo, no, la conservazione degli alimenti, l'uso degli alimenti, delle proprie culture, così come facevano in maniera ancestrale, di nuovo l'alimentazione, di riuscire a non dipendere. È vero che i Mapuche sono quelli che poi vanno a vendere i propri prodotti, quello che vendono, lei dice, il minimo e quello che serve, perché comunque è un processo in corso, ma sicuramente nelle comunità si torna anche a questo, no? A un tipo di alimentazione che viene dal proprio territorio. Questo riguarda l'alimentazione, riguarda la cura, la medicina, riguarda, certo, un altro, sì, tantissimi aspetti, e quindi in questo modo riuscire a tornare a quel tipo di autonomia, che di nuovo è un'autonomia che spaventa, che esce completamente dalla dipendenza dello scatolame, no? Del tarro, del cibo in scatola. Sì, un'alimentazione che cerca queste cose, un altro rapporto con l'ambiente, una veramente una cosa sana, no? per il corpo, però che alla fine permette quell'autonomia economica. E questo è interessante pure quando lei parla di questa autonomia, che spiega, prima ci hanno provato e ci provano tuttora, no? a dividerci, a sconfiggerci, ma non ce la faranno. Siamo un popolo che, diciamo, è nato in questo rapporto con lo Stato cileno dalla resistenza, e continuerà così, non ci riusciranno. Viene da lontanissimo questa resistenza. Quindi noi ci abbiamo un'autonomia, e questo è quello che fa rodere certa parte dell'anatomia dello Stato cileno, il fatto che diventano pericolosi perché sono autonomi dello Stato cileno, sono autonomi dal sistema che propone lo Stato cileno. Spiegava la compagna questa forma di autonomia cosa significa, come diceva, andare fuori, no, per fornirsi o vendere poche cose, e per fortuna poter sviluppare così il loro modo di vita, la loro forma di vita. Continuiamo ad ascoltarla. Sé que para ellos esto sea peligroso. Sí nos pueden amedrentar, sí nos pueden enviar médicos, sí. Pero si piensan que vivimos con el temor y con la idea de que con eso se nos acaba todo este trabajo político mapuche que hemos desarrollado, están muy equivocados. Aquí hay gente que está dispuesta a dar la vida si es necesario por defender esta lucha que es justa por lo demás y que la venimos desarrollando nosotros en el tiempo. Entonces, cuando el Estado no nos quiere escuchar, cuando se hace oídos sordos, nosotros decimos vamos a seguir caminando en esta misma senda de la reconstrucción de nuestro pueblo, ejerciendo el control territorial para poder así desarrollar autonomía. Es lo que hemos venido diciendo todo el tiempo, pero no se nos escucha. Entonces, si a esta forma de vida se le llama terrorismo, bueno, ahí que les quede al resto para los que van a escuchar y desarrollen ellos su idea si verdaderamente esto es terrorismo. Molto chiaro, mi sembra, no? Allora, adesso invece iniziamo un discorso che dice: pensano veramente di risolvere il problema inviandoci militari, come sta effettivamente accadendo, no? L'abbiamo appena letto, Piñera ha mandato questa orda in mano e gli ha detto fate come vi pare, siete padroni, e lei dice qua possono pure farlo, ma noi non ci fermeremo, questo non fermerà questa lotta che noi portiamo avanti da sempre, direi da centinaia di anni, mi verrebbe, sì, dire, segnalato, qua c'è gente, esatto, da decenni rispetto a quello che è questo recupero territoriale, c'è persone qui che sono disposte a dare la vita per questo, e lo abbiamo visto nelle tante lotte di cui parliamo continuamente, ci sono persone disposte a dare la vita, non è una, e quando loro fanno oído sordo, cioè fanno così le orecchie da mercante, noi continuiamo, ci concentriamo nel continuare nella costruzione, nella ricostruzione del nostro mondo e nei percorsi di recupero territoriale, l'esercizio dell'autonomia, esatto, perché appunto continuiamo a sentirla, dai. Nosotros lo decía mucho Peña, nosotros no somos quienes le hemos declarado la guerra al Estado, nosotros lo que hacemos es la autodefensa y la resistencia de los espacios ya ganados, ¿ya? Y probablemente exista algún episodio de violencia política que lo provoque el Estado, porque nosotros no lo vamos a provocar, pero a la hora de la defensa y la resistencia vamos a estar presentes, y ese es un compromiso que lo han ido asumiendo las comunidades toda vez que hacemos Tragún o Nutam, como en esta ocasión. Entonces, eso nos vuelve a mirar en la figura de Pablo Marchand, en la figura de Alex Lemún, en la figura de Matías Castrileo, de que la entrega de nuestros peñas y de nuestros mártires no ha sido en vano, porque estos procesos los vamos a sostener con todo lo que ha significado. Sangre, sudor y lágrimas de parte de las comunidades. Y en este momento de estrechez, en este momento de cerco y de acoso, incluso de una eventual cacería de la militancia más comprometida, de la dirigencia más comprometida, vamos a ver en el terreno quién es quién. Faceva un richiamo in questa ultima parte, diciamo, questa testimonianza a tutti i fratelli, no? Alex Lemún, Pablo Marchand e Matías Castrileo. Per citare i loro nomi come esempi della lotta che portano avanti, e diceva questo: loro sono l'esempio, si continuerà avanti anche di fronte a una militarizzazione come questa che sta portando avanti lo Stato cileno. Quindi dimostrando una determinazione giusta e necessaria, più che altro direi, per poter portare avanti una lotta di questo tipo, ed è importante sapere che da parte loro c'è questa determinazione, no? È riconfortante sapere che si può portare avanti così una lotta di quel tipo, dove veramente non si scherza. No, infatti, tra l'altro, appunto, io credo che poi questo è semplicemente il riassunto detto in maniera molto celebrativa, in un incontro assolutamente celebrativo. Io vi ripeto, andatevi a vedere anche il video di queste voci che vi stiamo facendo sentire, perché è un video, perché cambia molto rispetto a tutto quello che c'è intorno. Insomma, tre autorità che riconfermano, ritornano a dire, in un momento in cui si parla molto di militarizzazione, loro continuano a dire: non siamo noi che abbiamo dichiarato guerra a questo Stato, non siamo stati noi a dichiarare guerra. Siamo stati attaccati da un sistema che non ci permette di vivere nel nostro mondo, che non ci ha più permesso di continuare a fondare le nostre comunità, che ci voleva obbligare ad entrare in un sistema che non è il nostro e che ci teneva ai margini. Quindi, voglio dire, in maniera molto celebrativa si tornano a riconfermare quelli che sono i punti principali delle lotte che noi poi vi raccontiamo tutti i giorni, no? Quindi degli estenuanti fino alla morte, spesso a volte quasi, ma di 80 giorni di sciopero della fame, insomma, persone veramente pronte, sempre con una lucidità politica abbastanza rara, di portare avanti le lotte in autonomia. Andiamo a sentire che dice questa ultima parte, rimangono gli ultimi pochi minuti. Esto está de alguna manera también siendo observado desde afuera. Hay aquí, al menos se han comunicado con nosotros algunos denominados observadores internacionales que nos han planteado esta posibilidad, ¿ya? Sin embargo, esto no es muy bien visto por los agentes del Estado o el Estado en sí, porque a quien no le conviene que esta realidad sea expuesta tal cual es al Estado chileno, porque serían vistos desde afuera como un Estado fascista que reprime a un pueblo originario, que lo reprime con la bota militar, con un tipo de dictadura, no solamente de la dictadura del capital monopólico financiero que hace crisis en nuestro territorio, sino una dictadura militar, fascista, racista, que pretende el exterminio de un pueblo. Y que nos daría la legitimidad a nosotros como pueblo nación mapuche de asumir la autodefensa y la rebelión necesaria, incluso de legitimar la lucha armada para que esto no ocurra. Porque nosotros no queremos ser exterminados, porque las comunidades mapuches existen y tienen todo el derecho a existir con una forma de vida que nosotros consideramos absolutamente mejor y más justa que la que nos ofrece el sistema capitalista y la gobernanza neoliberal. A las comunidades. Interessante pure questa parte. Beh, sì, più che interessante direi proprio. Perché dice lui, sì, per fortuna aggiungo io, c'è un rapporto, c'è una relazione, c'è una comunicazione con alcuni osservatori internazionali che si sono comunicati. Sì, no, lui loro. Dice, mi sembrava più ironico a me, No, sì. Cioè, un po' più cinico, diceva ci sono alcune organizzazioni internazionali che ci hanno proposto, che ci fanno delle proposte. Che, sì, ma è vero. Dai. Però era un po' più così, ridacchiamo un pochetto. Perché questo diceva non conviene, certo, allo Stato cileno. Lo Stato cileno sarebbe visto altrimenti no, come uno Stato fascista, ha detto, uno Stato che porta avanti una dittatura in difesa degli interessi internazionali e che starebbe portando avanti pure un genocidio contro il popolo mapuche. Quindi questo darebbe loro la possibilità di autodeterminarsi ancora di più nella lotta e difendere politicamente quella decisione. Decisione che sarebbe convalidata dalla teoria di questo Stato fascista, ovviamente. Cioè, sapendo, conoscendo, comunicando quello che succede lì. Sì, gli osservatori ancora li aspettiamo. Invece noi siamo pronti anche a scegliere diverse pratiche, sono aperte a tutto, non giudichiamo le pratiche di boicottaggio, non giudichiamo se qualcuno sceglie una resistenza che può passare dalla lotta armata, no? Mi sembra che la sintesi fosse un po' questa, a seconda del livello di resistenza, a seconda del livello di resistenza che ci verrà imposto, a seconda del livello di attacco e di alzata di livello di attacco che riceveremo, metteremo in pratica ciò che riteniamo giusto come resistenza, perché non ci sia un genocidio, che è quello che loro vogliono. Mi sembra che è stato abbastanza chiaro. Andiamo a sentire l'ultimo intervento, credo, della compagna. Comunque, come vedete, poi si girano molto bello, insomma, è molto bello questo tribuno, indubbiamente. È una forma assembleare che va anche vista oltre che ascoltata. A las comunidades en resistencia que ejercen el control territorial y que expulsan a toda forestal o latifundio que viven de esta cosa del capitalismo mismo, el llamado y el saludo es también decirle que sigan en sus procesos de recuperación, que sigan resistiendo y que no bajen los brazos. Esta es una lucha que nosotros como pueblo mapuche lo tenemos súper claro, que no es momento de bajar los brazos, que no es momento de dar un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Nosotros bien lo sabemos en nuestros propios territorios, de que de la única forma que se logran los objetivos en el territorio mismo es haciendo este trabajo, ejerciendo el control territorial, desarrollemos la autonomía dentro de estos mismos predios y que depende de nosotros darle la dignidad propia a esta lucha que desarrollamos cada día. Que a pesar de la represión que hoy día existe en contra de nuestras comunidades, que no sea motivo de retroceder, sino más bien de mantenerse y de demostrarle una vez más a este Estado opresor que no nos han derrotado y que no nos van a derrotar. Así es que tengan un saludo fraterno y a todas las expresiones también de resistencia que existen en el Gualmapu, que sigan con sus luchas, que no bajen los brazos y que sigamos en esta unidad de seguir reconstruyéndonos como pueblo. Ecco, dunque terminava qui con questo ultimo intervento, che appunto era più invece rivolto al proprio popolo, alle comunità, e quindi che nonostante questa nuova alzata, questo nuovo attacco del potere, quindi ancora di più l'aumento e soprattutto l'aumento del potere dato alla militarizzazione nella zona, faceva appello appunto alle comunità anche a non abbassare le braccia, a non bajar los brazos, a non lasciarsi intimorire da questo momento, perché è l'unica forma, come hanno visto con le loro vittorie, l'unica forma di vincere è continuando a recuperare i propri territori, continuando a fare il proprio lavoro, l'unico modo di dare dignità, anche perché sono loro che devono decidere che forma e quanta dignità dare, e quindi l'unico modo di vincere è quello di continuare a fare il proprio lavoro, rifondare il proprio mondo, tornare a fare i trauna, a fare gli incontri. E soprattutto faceva un saluto a tutte le forme di resistenza che stanno accompagnando questa questa nuova ondata di militarizzazione, gli faceva un saluto, insomma, rispettoso, perché è il grande aiuto che le comunità hanno. Quindi un lavoro sotto tanti fronti, che va dal lavoro culturale di rifondazione del proprio mondo a quello rispetto alla resistenza, e che quindi, appunto, tornava a dire di non di mantenere alta la resistenza e di non farsi scoraggiare da questo momento di militarizzazione. Interessante testimonianze per di nuovo capire sempre meglio e di più la situazione nel Gualmapu, in questo caso nel territorio mapuche occupato dallo Stato cileno. Sì, io non so, lo vogliamo ricordare allora, a parte, appunto, lo trovate postato nella nostra pagina Facebook, che è la pagina della rete in difesa del la rete internazionale in difesa del popolo mapuche in spagnolo, ve lo abbiamo postato. Comunque è il Trawun che si è tenuto il 23 ottobre nella tra le comunità in resistenza della Corregidora Arauco-Mayeco nel Lof Copia Vegliano della comunità di Treguen, che è appunto in una zona di forestali, insomma, di territorio recuperato alle forestali.